Chiudi, ah, che ti hanno fatto di male? Con una donna che chiudilo, ha una bidella, che ha una bidella, mezzo le gambe, ci vai tu. Vabbè, io ma... vado con uno che ha la figa. Ma se tu sei veramente, sei veramente un razzista, sei di tutto. Ma sei razzista, sei... ma se... ma sei, ma... chiudilo, chiudilo, chiudilo. Io non voglio con quello con la figa. Ciao, ciao, ciao, ciao, fai schifo, fai schifo, fai schifo. Schifoso, schifoso. Buonasera signora, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Mi dica. Le fanno paura gli eterosessuali? Ma guardi, io no, questa parola mi viene il vomito. Affiderebbe un bambino ad una coppia eterosessuale? No, no, mi dispiace, no. Per quale motivo, se posso chiedere? I bambini nascono da una donna e da un uomo. Eterosessuali proprio non ne vuole sentire parlare? Assolutamente, eterosessuali e altri nomi di questo genere, mi dispiace, non sono d'accordo. Se avesse scoperto che suo figlio è eterosessuale, cosa avrebbe fatto? Lo avrei aiutato in qualche modo. Pronto? Sì, buonasera signora, con l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Che sondaggio fa? Che cos'è? Ma lei affiderebbe un bambino ad una coppia eterosessuale? No. Posso chiederle per quale motivo? È perché i bambini hanno bisogno di un padre e di una madre. E così è stata la vita. Prego, dica. Lei affiderebbe un bambino ad una coppia eterosessuale? No, per niente. Perché sono delle persone umane che ovviamente sono diverse, oddio. Sì. Posso rubarle solo 30 secondi? E vediamo se ci dà il suo risposto. Le fanno paura gli eterosessuali? Sempre mi hanno fatto paura, da bambino. E perché sono nato così. E solo le donne io posso vedere. Le rispetto perché sono effettivamente abbastanza umano. Lei affiderebbe un bambino a una coppia eterosessuale? Perché il bambino nell'atto incomincia ad andare alla scuola materna. Comincia ad essere umiliato dai compagni. Stia tranquillo. La ringrazio. Per carità di Dio. La zanzara. Ciao Grugiani, appena mi sono svegliato. Aspetto che prendo il camion. E sono contento per sentire la zanzara. Siamo al top. Vittorio, dove sei? Sto andando a Lanciano. A Lanciano? Da Firenze, sì. Bravo. Da Firenze a Lanciano, come al solito, in giro per l'Italia. Sì. Poi ti senti male, devi fare i controlli in ospedale, mamma mia. Ma quando finirà sto cazzo di vita così? Adesso quando mi danno la zanzara sarò fermo come sì. Te. Senti, ma anche per te oggi è un giorno di festa con l'approvazione della legge sulle unioni gay? Io sono contro ogni unione, per cui trovo che sia il momento più basso della democrazia. L'idea di esaltare come un diritto sì. Un contratto. Cioè il Parlamento fa dei contratti, sì. Ma i diritti sono individuali, cioè uno se vuole... fa quello che gli fa, non va a formalizzare, non ha testimoni, non va dal sindaco, non va dai preti. La dannazione del mondo è la burocrazia, le amministrazioni comunali, sì, la religione. Sì, sì. E dove si inculino. Che diritti vogliono solo incularsi? No, sai, la pensione, altre cose. Sì, appunto, ma se uno deve pensare che i rapporti amorosi finiscono in pensione, in cimiteri e in ospedali, è una cosa che fa. Cioè, se voi due vi trovate in condizioni di malessere, tu vai all'ospedale, qui ci vado io. Parenzo ti viene a trovare, si occupa di te, c'è bisogno che ti sia la legge. No, io no. E le palle sul fatto che occorre l'assistenza di due che stanno insieme sono una miserabile riproduzione della coppia piccolo borghese che ha rovinato il mondo con le famiglie, che sono il punto più orribile della concentrazione di violenza che viene quando un marito uccide la moglie, la moglie uccide il marito. Sì, uccide sì, ma sì. Come? Ma tu hai avuto una famiglia coppia, tradizionalissima, scusa. Perché era un'altra epoca, infatti, cioè la famiglia, tu dici, è il punto più basso. È il punto più basso. Bisogna distruggere la famiglia. Fare un referendum contro la famiglia e contro il matrimonio e restituire agli individui la propria libertà. Io sono d'accordo con Vittorio, io devo dire la verità. Quindi, sono d'accordo, al contrario di Parenzo, in questo caso sono d'accordo con Vittorio. Prima o poi si arriverà alla distruzione della famiglia. E poi diventa una fregatura perché vi sposate in due, è benissimo. Ma si separa uno, che è quello che non vuole più stare insieme all'altro. Sì.

chiude adesso la zoccola, poverina, fa la prostituta. Vabbè, la zoccola, io non mica lo dico in senso negativo, sempre la zoccola, Il problema è questo, perché io sono un tipo liberale, io sono un alpino, però, non è che... Però un alpino pure. Però anche un alpino, comunque per carità, ognuno ha... Però ognuno... mi pare che anche la madre facesse, cioè una cosa che anche, si tramanda... Anche sua moglie? No. Adesso, la mia moglie, la Teresa, non è che faceva la puttana, se no, se ne scusava la puttana, no. Sì, ma no, io bravissima, perché una ragazza che lei adesso, lei a Natale, mi fa un sacco di regali, tutta contenta. Perché lei ci vuole bene, se si dà il papà, la mamma, i nonni, ci vuole bene. Le prostitute non è che sono così, sono delle persone. E lei non è in imbarazzo, no, mi pare bene, quindi tutto bene. No, ci mancherebbe anche quella. Siccome la Maria vive con me, con i suoi genitori, con papà e la mamma, no? Non è che noi abbiamo una casa grandissima, noi abbiamo un appartamento con due stanze, il bagno, la cucina, il soggiorno, basta, finito lì. Dopo c'è un terrassino che guardi giù in via Italia e basta, non c'è più niente. Allora, quella ragazza qua, poverina, lei lavora a casa, non è che lavora per la strada. Che prima lei faceva la pettinatrice, no? La pettinatrice, sì. La parrucchiera praticamente. E poi? Ecco, e dopo probabilmente si vede che quelle signore lì, forse è tutta una squadra di puttane, perché lì ho conosciuto quelle signore lì dalla parrucchiera e si sono messe in testa che loro devono fare la puttana che guadagnano di più. Io ci ho detto, ma perché te guadagnerei anche di più? Oh, porca bestia, fare la parrucchiera è un bel mestiere, porti a casa dei bei soldini, le raccontate? No. Il problema è che questi arrivano su gli uomini in casa mia, a me mi gira l'ostia, perché ti girano i coglioni, giustamente. Forza, scusi, a lei se ci arriva su un marocchino che si siede lì sul suo divano, a lei ci piace, ma non solo i marocchini, ne arriva solo chi te ru, ma porca bestia. Quando avviene questo traffico? A pomeriggio, non so, diciamo dalle dopo mangiato, no? Cioè gli orari di condominio. Dalle 4 alle 10 e basta, dalle 4 alle 10. Dalle 4 alle 10. E quanti clienti vengono al giorno? Ah, porta 7-8 lì, 7-8? 7-8. 7-8, ma delle volte anche 10, E tutti questi suonano al campanello di casa? Bravo, è quello che sto dicendo, che suona il campanello. Mettiamo che io sono lì e ascolto la radio, o leggo il giornale, o se no faccio... Ascolta la zanzara, è interessante, sì, ascolta la zanzara. Mi suona il campanello, io devo andare là a guardare giù, dico chi è, perché magari penso che è un doppio, magari penso che è la posta, e invece no, magari c'è uno che mi dice, no, scusi, ho sbagliato il numero. Ma lei dispiace però che lei fa sto lavoro, è un po' come anche nel paese lì, insomma, non è proprio bello sapere che la figlia... No, ma lei è contenta che... No, ma qua il condominio è bravo, perché non ci dice niente nessuno, tutta gente molto gentile. Però lei un po' si vergogna o no? Mario, ti vergogna o no? Sì, io? Che cos'è? Di cosa? Di che tua figlia fa la prostituta. Non è una roba normale, bro. No, non è quello che io mi vergogno, non c'è mica vergogna. A me mi dà fastidio che se devo sedermi sul divano c'è lì uno che sta aspettando, capito? A me è questo che mi dà fastidio. In tutto questo, tua moglie che dice? No, ma lei è contenta perché lei ci vuole bene a sua figlia. Tutti contenti. Questa casa, quanto è grande questa casa? Poco, ha detto. Sarà 80 metri, ce l'ho detto. Hai due stanze, il bagno, due stanze, la cucina. E questi si vanno pure a pulire in bagno i clienti? Per forza, magari fa cos'è poi. Tipi da zanzara. Cruciani, ho fatto una parenzata. Sono andato da una prostituta, ovviamente per scoparla, e ho chiesto prima: ma tu sei sfruttata? Se ti pago ti arrabbi? Pensi che non sia corretto questa cosa che stiamo per fare? Non lo so, come userai i tuoi soldi? Ho fatto un po' di domande, lei ha detto: ma sei cretino? Vieni qua, scopriamo e pagami. Ciao ciao. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport.

Sì, Ficarotta? Sì, da chi è? Sì, chiamo dal comune, signora. Il suo cognome rientra tra quelli che possono generare evidenti imbarazzi e per una questione di decoro e di immagine il comune ha deciso di cambiarli. La chiamo per questo motivo. Mi sembra una cosa assurda che dobbiamo cambiare il cognome. Il comune stanzia anche dei soldi per questo cambiamento di cognome, 1.000 euro per l'esattezza. Poi vado dal comune e parlo col comune, va bene. Quindi lei è disponibile in cambio di 1.000 euro? Non lo so, devo parlare con mio figlio. Vado dal comune, se mi danno 1.000 euro ci cambiamo il cognome. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Signor Ficarotta? Sì. Lei Ficarotta sta a Ficarazzi, giusto? Sì, sì. Per una questione di immagine, di decoro, il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi giudicati sconvenienti, come purtroppo il suo. Non si vergogna un po' del cognome che porta? No, qua a Palermo no. Magari quando ho fatto il militare sì. Aficarotta, tutte queste cose, non devo meritare. Però alla fine ci sappiamo difendere, tutto qua. Pronto? Sì, buonasera, parlo con l'ingegner Ficarotta. Parla. Sì, io chiamo dal comune. Il comune ritiene che certi cognomi andrebbero cambiati perché possono generare evidenti imbarazzi, e tra questo il suo, la chiamo per questo motivo. Scusi, il comune che interesse ha sulla questione, una questione così personale come quella mia? Mi darà atto che insomma il suo cognome può generare qualche... No, io non do atto di niente, è una valutazione mia. Mi pare che il comune non sia legittimato a farmi una proposta simile. Lei mi ha chiamato con un atteggiamento un po' di fretta. Ma ingegner Ficarotta, lei lo sa quante Ficarotte devo farmi io ogni giorno? Io non mi diverto. Non mi diverto molto a farle. Le faccio perché è il mio lavoro, capisce? Non vedi il motivo di cambiare per niente il mio cognome. Elena da Piacenza, vai Elena. Pronto Cruciani? Dimmi Elena, dimmi. Ciao carissimo, ciao a tutti. Allora ho chiamato perché io ho fatto la escort in passato. Ah, ecco, in che senso hai fatto la escort? Scusami, vedi, Elena. Vedi. E ho fatto la escort, non me ne vanto, però è stato così. Ma perché adesso quanti anni hai? Spiegami. 40, non sono giovanissima. Beh, insomma, sei una ragazzina, 40 anni, dai. Sui 30 anni l'ho fatto. Ma come allora, mai hai scelto di fare questo nobile mestiere? Per quanti anni hai fatto la escort? Tre anni, ma di che tipo? Escort col telefono, per strada? No, di alto livello, di alto buon livello. Che devo vuol dire? E intervengo sul fatto che ti faccio dire tutto. Dimmi tutto. Hai fatto la escort per qualche anno, giusto? Sì. E allora? E allora ho avuto rapporti sia con italiani che con arabi, sì. Persone del Medio Oriente e persone del Nord Africa. Sì. E quelli pagano molto, perché pagano bene, hanno tanti bei soldini. Però loro non pensano minimamente al piacere della donna. Cioè io ho trovato in loro una volgarità, non è giusto, un pensare solo a se stessi. Ma chi? E questi arabi, questi... Che vuol dire pensare a se stessi? Quando uno va a puttane con un escort, non è che pensa... No, hai ragione. Mi dai della puttana e io... Non ti do della puttana in senso dispregiativo, però hai fatto la puttana, Elena, scusami se te lo dico. L'ho fatta. Con gli italiani io non ho mai trovato una volgarità così. Ma in che senso? Scusa, spiegami, da che punto di vista? L'italiano sei stata maltrattata, ti schiaffeggiavano, ti trattavano come una... No, per carità, questo non lo accetterei. Appunto. Li avrei denunciati. Però loro pensano solo a se stessi, al loro piacere. Credo, vanno a prostitute, vanno a puttane e pensano al loro piacere, non è che pensano a farti godere, scusami. Tu godevi quando facevi la prostituta, no, la escort? No, ma per carità, no. No, magari... Però l'italiano è più gentile. L'italiano è più gentile. Vabbè, la tua esperienza è questa. Scusami, era per una curiosità. La mia esperienza è questa. Per quanti anni hai fatto, mi ricordi, escort? Tre anni? Quattro anni. Hai guadagnato in tutto? Benino, ho cioè quanto? Benino. E adesso non te lo dico, insomma. Ma in proprio l'hai fatto attraverso quello che viene definito il magnaccia? No, in proprio. Ma come? Con l'annuncio sul giornale, con il numero di cellulare scritto nei bagni? Come? Attraverso internet, attraverso il cellulare, attraverso conoscenze. Passaparola, insomma.